Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko da Bologna, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, nonché nel web potete ascoltarci scaricando l'apposita app che trovate sul sito radiocittafujiko.it. Ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 musica dal vivo da Radio Città Fujiko per una trasmissione denominata Città Fujiko Live Club. Trasmissione che inizia sempre con una novità e anche oggi non è esente da questa tradizione. Avevo parlato tempo fa, mi ero lamentato, fra virgolette, della inoperosità di Joe Bonamassa, un grande chitarrista che è veramente super attivo, ma da qualche tempo non pubblicava album live e lui mi ha subito accontentato pubblicando nelle scorse settimane questo nuovo album che si chiama Tales of the Time. Joe Bonamassa è un chitarrista che arriva da New Hartford, nello stato di New York, e ha iniziato la carriera giovanissimo, a 12 anni era già in tour, apriva i concerti di B.B. King in giro per gli Stati Uniti. E ha iniziato discograficamente la propria carriera nel 2000 con il primo album. Da lì è stato veramente uno staccanovista, ha fatto tantissime cose, ha fatto 15 album in studio a suo nome, più 18 album live sempre a suo nome, 5 album con una band che si chiama Black Country Communion, di cui uno dal vivo, 4 album con la band che si chiama Rock Candy Funk Party, di cui uno dal vivo, 4 album con Beth Hart, di cui uno dal vivo, e un album solo, poverini, con gli Sleep Easies. Questo nuovo album è stato registrato a Red Rocks, esattamente Morrison, Colorado, l'8 agosto dello scorso anno, del 2022, ed è in pratica la riproposizione dell'ultimo album di studio del buon Joe, che non ha pubblicato l'intero concerto, ma solamente un estratto da quel concerto dello scorso anno. Ce l'andiamo ad ascoltare subito, Joe Bonamassa con la sua ottima band, il brano si chiama The Hurt That Never Waits, lui appunto è stato registrato a Red Rocks, del quale parleremo dopo.

Forse ho dimenticato di specificare che Joe Bonamassa è un chitarrista, nonché cantante, ma per chi segue le mie trasmissioni non dovrebbe essere stato necessario, visto che avendo fatto 18 album dal vivo in proprio più tanti altri in compagnia, capita spesso su queste frequenze e in questa trasmissione di ascoltare la chitarra appunto di Joe Bonamassa. Questo era The Heart That Never Waits, dall'ultimo album che si chiama Tales of Time, che in realtà è un combo, cioè una binata fra il CD e un Blu-ray. Ancora in questo caso purtroppo per avere il CD bisogna acquistare il Blu-ray, per chi come me non ha il lettore Blu-ray, niente, è assolutamente superfluo. E vi dicevo che questa The Heart Never Waits, come del resto tutto l'album, è stato registrato a Red Rocks Amphitheater, uno dei posti più meravigliosi del mondo per quel che mi riguarda. Oltre a essere un posto veramente fantastico, nel senso che è una costruzione naturale, rocce naturali che sono formate nel corso di milioni di anni, ed è un posto che è a 10 miglia ovest di Denver, quindi diciamo 16-17 chilometri ad ovest di Denver, ed è un posto meraviglioso, nel senso che dall'inizio di maggio alla fine di ottobre praticamente tutte le sere concerti di altissima qualità con gruppi di fama mondiale, come si diceva una volta, e quindi sarebbe bello partire, iniziare appunto la stagione dai primi di maggio, stare lì tutta la stagione, vedere tutti i concerti tutte le sere, sarebbe veramente fantastico, ma diciamo pecuniariamente impossibile. Ma comunque andiamo avanti, e dirò solamente che Red Rocks, che chiaramente sarà il protagonista della prima parte della trasmissione, è stato aperto nel giugno del 1941 ufficialmente, anche se già nel 1906 un personaggio del quale non ricordo il nome aveva organizzato qualche concerto estemporaneo. Dal 1941 invece, dopo che il parco di Red Rocks fu acquistato dalla città di Denver e quindi dallo stato dell'Arizona, e fu fatto un palco apposta, tutte le strutture per aprire appunto nel giugno 1941 in modo sistematico ai concerti di tutti i tipi. Tra parentesi, il punto più alto, perché Red Rocks ha il palco in basso e la platea si sviluppa in alto, nel punto più alto per la cronaca sono 1965 metri sul livello del mare e può contenere fino a 9.525 persone. Passeremo in rassegna quindi alcune delle registrazioni tante effettuate in questa località, ad iniziare da una band britannica che però ha avuto un successo strepitoso negli Stati Uniti, che però adesso è in calo sia di qualità musicale che di popolarità. Chi si ricorda di Mumford & Sons? Hanno avuto nella metà degli anni 2010, diciamo dal 2011 al 2016-2017, un momento di grandissima notorietà, soprattutto appunto negli Stati Uniti, pur essendo loro britannici. Il loro secondo album, che si chiama Babel, è stato pubblicato anche in una versione che è stata definita Gentleman on the Road. Sono due CD, la versione originale dell'album, più la versione live, che è quella che ci andremo naturalmente ad ascoltare, più il DVD. Il tutto è stato registrato nell'agosto del 2012 e questo è uno dei grandi classici dei Mumford & Sons. Blowing away with this new sun. swell as strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh, fix my eyes, a tethered mind free from the lies. We'll be right back. Sono stati gli U2 con quel meraviglioso video che si chiama appunto Live a Red Rocks, a rendere famoso questo teatro all'aperto, e oltre al video poi hanno inserito alcuni brani nell'omonimo omonimo album live che si chiama appunto Live at Red Rocks, e anche qualche brano assortito qua e là in qualche singolo, tipo questo che ci siamo ascoltati. Sono tre brani, Sweet Thing in versione studio più due brani dal vivo registrati appunto a Red Rocks nel giugno, il 5 giugno del 1983, e appunto quello che ci siamo ascoltati è un pezzo che si chiama Twilight. I primi U2 sono veramente fantastici. It's real important, no matter where you go in this entire world, is you remember that place, you know, that place where you and your crew and your people, you had that spot, you know what I mean? It's like you can go back in your mind, you know what I mean, at any point in time, and know exactly where you were when you told your friends that you loved them. You know exactly where you were when you told your people that they're there for you and you're there for them. For us, it was a place called Black Rock, and that's what this song's about. Black Rock swears from my time, writing down memories, I'm writing my rhymes, thinking about what's right or wrong. On the Black Rock is where I love to go after a long night on from my shore, and that's where we're spending tonight, yeah, on Red Rocks, yeah. I just look around and I take in the feeling coming up from the ground. Well, that's just something that I'm doing sometimes. And then I come out my door and I pull in the wind coming up from the shore. And that's just what we're doing tonight. Yeah! On that black rock, fresh from my time, writing down memories, I'm riding my rhyme, singing about what's right or wrong. Oh, but on a black rock is where I like to go after a long night on the shore. And that's where I put my song all night long, black Speaking out is like fighting alone, and that's the worst damn way we can fight. And when you are scared no more, reach your hand out and knock on my door. That's just what you're doing tonight. On that black rock, first of my time, writing down memories, I'm riding my ride, thinking about what's better on. Never could I, never could I. I could never believe you had to pinch me, baby, in my dream and wake me up, please. But maybe not, I'm at the spot in the back of my mind where I keep it all the time. I come from Rockville, MD, right below the state line, MD, all the time. Oh, Cole, let you know something in my soul. Yeah, it's like I'm ready to blast, ready to blow, and it's never ever stopping. But yo, gotta stop this, my eyes gotta break for a minute. And open up my ears, start to listen. When I opened up my ears and started to listen, yeah, I can hear real clear. A man break through the fog real near. I've been sitting on a black rock there. Think to myself, what's so clear? He said, my man, my man, my man, you got to let it all shine. I say, now what's your name? He said, I'm old man. Come ha detto il cantante, vengono da Rockville nel Maryland, sono attivi dal 1996, io aggiungo che si chiamano OAR, detta all'italiana OAR, che è l'acronimo per Of a Revolution, di rivoluzionario però non hanno assolutamente niente, fanno solamente della ottima musica, come ha dimostrato questo brano che si chiama Black Rock, nel quale appunto loro hanno giocato, il cantante ha giocato con l'assonanza con Red Rocks, andando più volte a citare appunto il teatro in cui suonarono questo brano il 15 luglio del 2012. Red Rocks Amphitheater è considerato anche uno dei grandi locali delle jam bands americane, cioè, praticamente nel corso di una stagione ci suonano tutte, e che a parte i Fish che dovrebbero suonare 20 sere per accontentare le richieste di biglietti, ma abbiamo diverse registrazioni effettuate invece da altre bands, tipo quelle che ci andiamo ad ascoltare adesso. Vengono da Princeton nel New Jersey, sono in giro dal 1987 e hanno un mago dell'armonica come leader, si chiama John Popper. È veramente bravissimo e ce lo andiamo ad ascoltare in questo brano che è stato registrato appunto a Red Rocks il 20 agosto del 1999. Il pezzo si chiama Support Your Local Emperor, loro sono Blues Traveler. Support your local emperor. Pay them tribute every time. Let it be known he holds your faith. From his fingertips shall flow the water. feeling, so that it may always feel secure in the last empire that he's made. But could you tell me what he's ever done for you? I'm not the one that needed an army. I'm not the one that needed respect. I'm not the one that hopes that we'll never. I'm not the one that they like they forget. You see, the one I'm gonna wander is willing to walk. And with the easy, the bad, and the other half, you can see it in the air, and it's just a little bit of talk. But the Roman's always looking for some cat he can stalk. To me, for him. To me. When royalty speaks, you then reply. Someday he may find his throne is cold. Someday he may chance to wonder why. Wonder why. Boy, could you tell me what it's ever done for you? I'm the one that needed army. You see the one who always winning the war. You're the evil, the bad, and the odd and the hard. You can see it in the end, it's just a little bit of tone. But it runs away looking for some cat in the soul. To me, for him. Ba-da-da-da, my da da da da da da da da da da da. That is me. E a proposito di jam bands, questa è sicuramente una delle migliori e delle più conosciute. Si chiamano Widespread Panic, vengono da Athens, Georgia, per i più curiosi direi che la conoscono perché è la città da cui provengono anche R.A.M. e sono attivi in Widespread Panic dal 1986 e sono stati a Red Rocks n volte, tantissime, 66 per la precisione, a giugno dello scorso anno, e detengono perciò il record di sold out show effettuati appunto a Red Rocks. Infatti anche nel 2007 hanno effettuato tre serate, 22, 23 e 24 giugno. Quello che ci siamo ascoltati era dal 23 giugno e si chiama Better Off, loro si chiamano Widespread Panic. Da non molto lontano a Red Rocks, in termini americani naturalmente, esattamente da Boulder in Colorado, arrivano Bigfoot Todd and the Monsters. Anche loro hanno suonato diverse volte a Red Rocks, sono stati pubblicati ben tre album. Il primo si chiama Red Rocks ed è del 2009, e quello più nuovo del 2020 si chiama We're Gonna Play It Anyway, e invece questo che ci andiamo ad ascoltare si chiama semplicemente Live at Red Rocks 1995, 1995. stato registrato il 18 maggio e quindi una delle prime serate di quella stagione, e il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Stratagem. Loro sono Big Head Todd and the Monsters, che concludono questa prima parte dedicata a Red Rocks. Come ho detto all'inizio, ci sono tantissime registrazioni effettuate in questa località. Una parte l'avevo già fatta ascoltare qualche mese fa. Oggi non ci sono stati dei doppioni, e anche le altre volte che ci andremo ad ascoltare qualcosa che proviene da Red Rocks vedrete che non ci saranno duplicazioni. Andiamo, Big Head Todd and the Monsters, a concludere la prima parte di Città Fujiko Live Club di oggi. Water, sorrows, the horses in the stable, and the dinner's on the table. Wrongs owe me rights, as it says in the faith. And I reached out to you, as I reached out to God. You're drunk on the mountain, you're blinded by the dark. I took on for the team and called it self-esteem. Took the irons out of the sky, put the irons on. All the city lights and silhouettes. Did you need your new boss? I hope he has your back. Ready to Yeah. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, che è iniziata con la novità che vi ho proposto, vi propongo quest'oggi. Joe Bonamassa con il suo nuovo album live, si chiama Tales of Time, è stato registrato, come ho già ampiamente illustrato nella prima parte, a Red Rocks in Colorado, Morrison, Colorado, l'8 agosto dello scorso anno. Il brano con cui abbiamo iniziato questa seconda parte si chiama The Loyal Kind, e fra parentesi è un brano che è stato scritto da Joe Bonamassa insieme a Bernie Marsden, che è un chitarrista britannico che però da anni vive negli Stati Uniti e che ha suonato un po' con tutti, dai Thin Lizzy ai Whitesnake, eccetera eccetera eccetera. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e anche oggi tantissime cose. E anche oggi, come sempre, il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. E andiamo a iniziare da tantissimi, tantissimi anni fa, esattamente 60, questo è un conto che so fare anch'io. Siamo nel 1963, sta crescendo, sta nascendo la leggenda di Bob Dylan. Lui in quel 10 maggio del 63 appunto era in concerto alla Brandeis University, che è una università appunto che è a Waltham nel Massachusetts, e qualcuno registrò il concerto su nastro. Questo nastro è stato poi ripescato in qualche modo in tempi più recenti, e nell'aprile del 2011 è stato pubblicato questo album che si chiama Brandeis University 1963. E il primo Bob Dylan, quello con la chitarrina, l'armonica e i suoi testi sempre molto molto tosti. E infatti quello che ho scelto per voi è un brano che è attualissimo, malgrado sia di 60 anni fa, purtroppo è attualissimo, e si chiama Talking World War III Blues, cioè il blues parlando della terza guerra mondiale. Bob Dylan, 10 maggio 1963. One time ago, a crazy dream came to me. I dreamt I was walking in World War III. I went to the doctor the very next day to see what kind of words he had to say. He said it was a bad dream. I said, hold it, Doc, a World War passed my brain. He said, nurse, get your pad, the boy's insane. He took my arm as I said, ouch, as I landed hard on the psychiatric couch. He said, tell me about it. Well, the whole thing started at 3 o'clock fast. It was all over by 1:15. I was down in the sewer with some little lover when I peeked out from a manhole cover. Wonder who turned the lights on us. Well, I got up and I walked around, up and down the lonesome town, just wondering which way to go. I lit a cigarette on a parking meter and I walked on down the road. It was a normal day. Well, I rung me a fallout shelter bell, and I leaned my head and I gave a big yell. Give me a string bean, I'm a hungry man. A shotgun fired and away I ran. I don't blame him much, though he didn't know me. Down the corner I seen another man turning around by the hot dog stand. I said, howdy, friend, I guess it's just us two. He screamed a bit and away he flew. He thought I was a communist. Well, I spied me a girl, and before she could leave, I said, let's go play Adam and Eve. I took her by the hand, and my heart was thumping. She said, hey, man, you crazy or something? You seen what happened last time they started? Well, I spied me a Cadillac window uptown, and I saw a Cadillac with nobody around. I got into the driver's seat and I drove down 42nd Street in my Cadillac. Good car to drive after a war. Well, I remember seeing some newspaper ads, so I turned on Comrade. But I didn't pay the Con Ed bill, so the radio didn't work so well. So I turned on the record player. It was Fabian singing, tell your ma, tell your pa, our loves are gonna grow, ooh-wah, ooh-wah. I was feeling kind of lonesome and blue and needed somebody to talk to. So I called up the operator at time just to hear a voice of some kind. When you hear the beep, it will be 3 o'clock. She said that for over an hour and I hung up. Well, the doctor interrupted me just about then, saying I've been having the same old dreams. My mind's a little different, you see. I dreamt the only person left after the war was me. I didn't see you around. Well, now time passed and it seems everybody's having them dreams. Everybody sees herself walking around with nobody else. Well, all the people can be half right part of the time. Part of the people can be some right all of the time. But all the people can't be all right all of the time. Abraham Lincoln said that. I'll let you be in my dream if I can be in yours. I said that. Mr. Bob Dylan all'università, in questo caso non come studente ma come musicista. Brandeis University 1963 è il titolo dell'album che, dal quale ci siamo ascoltati questa Talking World War III Blues, che è stato registrato il 10 maggio del 1963. The World is Live, il mondo è vivo, è un ottimo box set di 3 CD pubblicato dagli Yes ormai tanti anni fa. Gli Yes credo che non ci sia bisogno di presentazioni, però sono attivi dal 1968, arrivavano allora da Londra, anche perché adesso non c'è nessuno dei membri originali, e questo triplo cofanetto contiene delle perle veramente notevoli. Quella che ci andiamo ad ascoltare è stata registrata al Queen's Park Rangers Football Ground di Londra. Come capirete, essendo una rassegna della carriera degli Yes dal vivo, i brani sono stati registrati in diverse epoche e in diverse serate. Alle tastiere qui abbiamo Patrick Moraz, che è stato tastierista degli Yes dal 1974 a 1976, Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, 10 maggio 1975, si chiama Sweet Dreams. Thank you. Yes, nel 1975 erano all'apice della carriera, a mio avviso sarebbe uscito da dopo poco, quel doppio album che si chiama Tales from Topographic Ocean, che secondo me è bellissimo. Qui invece siamo in concerto a Londra, Queen's Park Rangers Football Ground, ed è Sweet Dreams, è stato registrato il 10 maggio del 1975. Si chiama Concert The Cure Live, l'album in vinile che ci andiamo ad ascoltare adesso. Vinile perché questo album, il primo album live dei Cure, non è mai stato ripubblicato in CD in versione ampliata, quindi comprarlo uguale mi sembra abbastanza inutile, anche se delle volte mi è successo. Comunque questo è un altro discorso. Il loro primo album live, Cure sono sempre stato una grande potenza, una grande band anche dal vivo, è stato registrato agli inizi di maggio fra Oxford e Londra. In particolare a Londra Hammersmith Odeon erano in concerto tre sere, 8, 9 e 10 maggio. Il 10 maggio interpretarono il brano che ci andiamo ad ascoltare adesso, lo ricordo, siamo nel 1984, i Cure, il brano si chiama The Walk. This is called The Walk. Hold it. And every day I thank you, love, for a feeling that's so new, so exciting, so inviting. Due classici del Rhythm Blues usciti dalla penna di Holland, Dozier Holland, e uniti in medley, My World is Empty Without You e I Hear a Symphony, erano i due brani in medley appunto che concludevano il concerto degli Afghan Wings il 10 maggio del 1994 in quel del Mercury Café di Denver, Colorado. Afghan Wings, conoscete meglio di me sicuramente, è una band che viene da Cincinnati, è capitanata da sempre da Greg Dooley, il cantante chitarrista, e che fa il bello e il cattivo tempo, scioglie e riforma la band a seconda dei suoi interessi di carriera solista o con una band, un'altra band molto valida che si chiama Twilight Singers. Il tutto è contenuto in un mini album che si chiama What Jail Is Like. Loro sono Afghan Whigs, 10 maggio 1994. L'ultima cosa che arriva per Ricordi Today di oggi arriva dal 2006, una band di Austin, Texas, che si chiama Band of Heathens. E proprio a Austin, Texas, in un locale che si chiama Momo, hanno registrato live il loro primo album. Poi nel corso della loro carriera hanno fatto diversi altri album live, tutti molto belli, che vi consiglio caldamente. Andiamo ad ascoltarcelo, questo, come vi dicevo, il loro primo album, sono ancora un po' acerbi ma comunque suonano alla grande. Era il 10 maggio del 2006, il pezzo che ho scelto per voi si chiama Jenny Was a Keeper, Band of Heathens. Picked up Jenny on Highway 10 down around San Antonio. Jenny was a Piccadilly runaway, she was traveling all that long. She stole her daddy's Cadillac, she dove it till the tank ran dry. Gave it to a man in a broken down van, but with a sweater and some camo light. That's when I knew Jenny was. Was a keeper. Jenny was. She was all right. I knew Jenny was. She was a keeper. Jenny was. She was all right. Well, I pulled into that Texaco. I was running low on gas. She hopped up on the shotgun side, she didn't even ask. Said she was headed out to Hollywood, but I was going east. But I turned that truck around, pointed the big town, put the hammer down. That's when I knew Jenny was. Yeah, I knew Jenny was. She was a keeper. Jenny was. She was alright. Was a keeper. She was. She was all right. Jenny's daddy had some money, but he never gave her none. Jenny had sticky fingers, so Jenny just learned to run. I knew Jenny was. She was a keeper. Jenny was. She was alright. I knew Jenny was. She was a keeper. Whoa, keeper. I knew. Maggio 2016, Band of Heathens a concludere Record Today di oggi con questa Jenny Was a Keeper. Molto velocemente vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, ogni mercoledì un paio di ore di musica live di tutte le epoche e di tutti i tipi, di tutte le stagioni, e quindi andiamo a concludere appunto con questa rimembranza, e nel darvi appunto l'appuntamento, scusate il brutto gioco di parole, per mercoledì prossimo. Andiamo a concludere con la novità che vi ho proposto quest'oggi, Joe Bonamassa, Tales of Time. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Question and Answer. Spero che ci stia tutto, altrimenti sarò purtroppo costretto a tagliarlo. Ciao a tutti da Nevio. Love you like I should, did my whole